in primo piano. Buona giornata, benvenuti, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo come i quotidiani di questa mattina presentano alcuni degli avvenimenti che avete sentito nel giornale radio poco fa, come appunto tiene banco ad esempio la vicenda di Cofferati, che è il suo strappo, così scrive il Messaggero: caos primario, strappo Cofferati, Renzi che ha polemicamente risposto se ne va perché ha perso. Allora, restando, visto che si tratta di una questione sorta in Liguria, cominciamo dal secolo XIX, quotidiano genovese: Cofferati lascia Partito Democratico nel caos, è infatti il titolo principale questa mattina del quotidiano di Genova. I civatiani lanciano una PM Canepa e i militanti dicono che non andranno mai più alle primarie. Insomma, un discreto pasticcio per il Partito Democratico con questa vicenda delle primarie. Alle pagine interne poi appunto si precisa che, come avete anche ascoltato nel corso del nostro giornale radio, non si candiderà, non darà origine a una nuova formazione, però ha dichiarato anche che porterà in procura le carte che riguardano queste contestate primarie genovesi per la scelta del candidato e che sarebbero state, a dire di Cofferati, appunto viziate da irregolarità nei voti. Intanto c'è sempre in Liguria la ricerca di un candidato che andrà poi a sfidare a questo punto Raffaella Paita. I nomi che circolano, apprendiamo appunto sempre dal secolo XIX, sono quelli di Federico Garaventa per Forza Italia, Edoardo Rixi della Lega, e poi ci sono altri nomi come Anna Canepa e Luca Pastorino. Questo per la vicenda di Cofferati, ma naturalmente tiene sempre banco, tiene sempre spazio, molto spazio, sulle prime pagine di questa mattina la vicenda delle cellule dei foreign fighters, come abbiamo imparato a chiamarli, dei jihadisti che sono presenti sul territorio europeo e soprattutto italiano. Espulsi dall'Italia 10 jihadisti, scrive il Messaggero come titolo principale, allontanati dopo le stragi di Parigi perché pericolosi. E poi allontanati dopo le stragi di Parigi perché pericolosi, un altro centinaio sarebbero sotto sorveglianza, e poi la notizia dell'arresto in Grecia del capo terrorista della cellula belga. Nello stesso tempo ci sono delle proteste in altri paesi, in Nigeria appunto, da parte della popolazione musulmana che appunto reagirebbe in questi paesi dove l'integralismo è più massicciamente presente, con degli altri atti di violenza. Ci sono le chiese bruciate appunto in Nigeria. Su questo titola Avvenire, con una sintesi molto stringata di tutto questo: vignette brucianti, effetto Charlie, 8 chiese incendiate in Niger, e poi è caccia al capo della cellula jihadista belga, le proteste che infiammano le piazze di molti paesi islamici e le dichiarazioni del nostro ministro degli interni Angelino Alfano, pronti a espellere gli integralisti, più coordinamento tra gli stati. La situazione in Nigeria è effettivamente preoccupante. Nella parte interna, nelle pagine interne di Avvenire, si apprende appunto che ci sono state 8 chiese incendiate, violenze a Niamey, e ci sono stati disordini anche in Somalia. La Francia ha invitato, l'ambasciata francese ha esortato i connazionali a non uscire di casa, così scrive Paolo Alfieri appunto su Avvenire questa mattina. Il giornale dà ampio spazio appunto a queste vicende di queste proteste, proteste in qualche modo, che rispondono alle proteste, alle manifestazioni che ci sono state in Europa. Si vedono anche, non solo su Avvenire ma anche su altri giornali, queste foto di manifestanti che reggono cartelli dove il cartello con scritta bianca su fondo nero Je suis Charlie, che abbiamo imparato a vedere in questi giorni, sono state sostituite da Je suis Muslim, cioè io sono musulmano. Quindi una sorta di risposta anche mediatica che però appunto si traduce poi in atti di violenza come l'incendio nelle chiese. Questo nella parte, la stessa foto appunto che vi descrivevo, che cercavo di descrivervi, con questi cartelli coniati in qualche modo, ripresi dai cartelli che sono stati esibiti in Europa, la trovate sulla prima pagina di Repubblica, riguarda una foto fatta ieri a Mogadiscio in Somalia, manifestazione contro Charlie Hebdo. E il primo titolo di Repubblica, poiché siamo su questo quotidiano, è quello dedicato alla vicenda politica del Partito Democratico. Cofferati lascia, me ne vado da questo PD, il gelo del partito, la risposta appunto non sa perdere, i sospetti di Renzi che dice vogliono la scissione, e poi le tensioni anche interne a Forza Italia, Berlusconi licenzia Brunetta, e la sintesi che Repubblica presenta in prima per l'intervento appunto di Berlusconi dopo le dichiarazioni rilasciate da Brunetta. Lo stesso titolo dedicato alla vicenda di Cofferati è anche il primo titolo per il Fatto Quotidiano. Cofferati molla il Partito Democratico, Renzi approva le primarie inquinate dai fascisti, è il virgolettato del candidato per le primarie, candidato perdente appunto, ma che accusa di irregolarità nel voto Cofferati. Poi sul Fatto Quotidiano in prima pagina una notizia che è ripresa anche da altre testate, ci torneremo, il reporter del New York Times che dichiara è stato pagato un riscatto per le due ragazze. Qui il riferimento è alla vicenda di Vanessa e Greta. Ieri le due ragazze sono ritornate nelle loro case in Lombardia, in due paesi della Lombardia, ma proseguono le polemiche alimentate anche da tensioni politiche. Vedremo poi su altri giornali appunto come la vicenda di questo presunto sospetto pagamento del riscatto, non confermato ufficialmente dal governo, continui ad alimentare delle polemiche. Qui appunto la testimonianza che troviamo sul Fatto Quotidiano, una giornalista del New York Times definita tra i massimi esperti di sequestri, che dice di aver ricevuto da due mediatori la conferma del pagamento di un riscatto per la liberazione appunto di Greta e Vanessa. E poi ricorda il fatto questa mattina che l'Europa ha sborsato 125 milioni di dollari in 6 anni per le liberazioni. Spesso sono sempre dichiarazioni di Maria Kalimachki, che è appunto la reporter sentita dal Fatto, spesso il denaro viene inviato sotto forma di aiuti umanitari. Ci sono poi delle indagini anche in corso in Italia per chiarire effettivamente quale può essere stato il ruolo sia dell'organizzazione che a cui si sono appoggiate le ragazze per recarsi in Siria, sia poi durante appunto la loro prigionia, le trattative. All'interno questa intervista dalla reporter New York Times, sempre sul Fatto Quotidiano, sono certa l'Italia ha pagato il riscatto per Greta e Vanessa, chiede Alessio Schiesari, riscatti ai jihadisti per risolvere i sequestri è una prassi consolidata, risponde la giornalista, cominciamo col dire che il governo italiano ha sempre pagato per i riscatti, conosco da vicino i casi di Sandra Mariani e Rossella Urru, entrambe rapite da Al-Qaeda in Nigeria, nel caso di Mariani gli appoggi locali erano in Burkina Faso, quindi ci sarebbe anche, come dire, una sorta di abituale disponibilità da parte del nostro governo al pagamento di questi riscatti. In primo piano. Ancora una buona domenica da Mauro Meazza, buona domenica naturalmente anche a Carmelo Lauricella questa mattina in regia dall'altra parte del vetro. Restiamo sui quotidiani, sulle prime pagine per il momento le vicende politiche interne al Partito Democratico e la polemica uscita di Cofferati sono ampiamente riprese, ma naturalmente grande spazio trovano anche le questioni di lotta, di prevenzione al terrorismo jihadista in Europa. La Stampa, ad esempio, dà il suo titolo principale proprio a questo, Jihad, prime espulsioni dall'Italia, sono 10 da inizio anno, e poi la caccia in Grecia al capo della cellula belga, ci sono stati 4 arresti. Anche sulla Stampa in prima pagina queste specie di contromanifestazioni integralisti contro le manifestazioni a sostegno di Charlie Hebdo che ci sono state in tutta Europa. Follia islamica in Niger, chiese a fuoco, rabbia anti-Charlie contagia il paese africano, ci sarebbero stati anche dei morti negli scontri con l'esercito. Questo in prima pagina della Stampa. Poi nella Stampa propone nelle pagine interne anche due servizi un po' diversi, diciamo, da questi temi che campeggiano su tutti i giornali. L'uno sul TFR in busta paga, come sapete con la legge di stabilità sarà possibile avere un anticipo del trattamento di fine rapporto, ne abbiamo parlato lungamente a Radio 24, ne abbiamo scritto su Sole 24 Ore. Questa mattina la Stampa propone un servizio firmato da Paolo Russo sulla convenienza, non moltissima a dire la verità, abbastanza ridotta, di chiedere questa anticipazione della liquidazione, così si chiama più familiarmente, del trattamento di fine rapporto all'interno della busta paga. Cioè, perché non conviene? Perché la disponibilità di maggiore contante viene però scoraggiata dall'aumento del prelievo fiscale, specialmente per redditi, e poi per i redditi bassi anche dall'innalzamento delle soglie, appunto, del reddito stesso ai fini dell'ISEE, il cosiddetto ricometro, che da quest'anno poi ha anche cambiato le sue regole. Secondo l'economista Agar Brugiavini, che viene intervistata sempre dalla Stampa, questo tipo di misura pensato per cercare di sostenere i consumi interni, di far ripartire i consumi interni, sarà un flop, dice alla Stampa di questa mattina, aderiranno solo 1,5 milioni di lavoratori. E poi ancora sulla Stampa, cominciano le udienze questa settimana alla Corte di Giustizia americana per la Corte Suprema degli Stati Uniti per l'applicazione del riconoscimento delle nozze omosessuali. La Stampa affida la segnalazione in prima pagina a un articolo firmato da Gianni Riotta. Se tocca sempre ai giudici scrivere la storia degli Stati Uniti, ma la vicenda si intreccia in qualche modo con un aspetto di cronaca, cioè il fatto che il sindaco di Milano Pisapia è stato indagato per aver trascritto sui registri comunali appunto delle nozze omosessuali. Naturalmente la questione si trova rilanciata dalle prime pagine e poi affrontata in diverse pagine interne, così ad esempio il riferimento che è sul Fatto Quotidiano, il Messaggero dedica un più spazio in prima pagina, matrimoni gay, indagato il sindaco di Milano Pisapia. L'annuncio è venuto ieri dallo stesso sindaco milanese, annunciato di essere indagato per omissione di atti d'ufficio per non avere ottemperato alla richiesta del prefetto di cancellare le trascrizioni dei matrimoni omosessuali contratti all'estero. Pisapia ha anche fatto un appello, si legge sul Messaggero, per a Renzi, al centro-sinistra, per revocare la circolare Alfano. Alfano appunto aveva invitato i sindaci a non dar corso a queste trascrizioni, e anche che non sono previste nel nostro ordinamento legale, quindi c'è un po' questa specie di atto dovuto a questo punto, ma chiaramente un atto dovuto che diventa particolarmente simbolico. Proviamo a guardare ad altri temi. Quella che si apre domani sarà la settimana del quantitative easing, due parole inglesi che abbiamo imparato a conoscere appunto per quello che ha fatto la banca centrale americana, ma che ora si attende farà la banca centrale europea. Il quantitative easing è una misura non convenzionale che appunto di acquisto dei titoli del debito degli stati che la banca centrale europea varerà, attesa appunto per per il varo giovedì prossimo, è molto importante perché si pensa che dia una spallata decisiva al rallentamento, alla stagnazione, quando non alla deflazione, degli stati dell'area euro. Sul Sole 24 Ore questa mattina la Banca Centrale Europea accelera sul QE, quantitative easing appunto, i mercati sono in attesa della decisione che Francoforte prenderà giovedì e pesa naturalmente l'incognita sul voto greco che si terrà alla fine della settimana che si apre domani. Si tratta per superare le resistenze tedesche, appunto la Germania non è favorevole a questa misura, è noto che la Bundesbank, la banca tedesca, non è favorevole a questa misura, si tratta per superare queste resistenze tedesche sui titoli, sulle garanzie e sulla quantità. E sempre sul Sole 24 Ore questa mattina un appello che viene firmato da numerosi economisti sul voto plurimo e che viene accompagnato anche da un corsivo del direttore appunto sul voto plurimo. Il voto plurimo significa appunto concedere più peso agli azionisti che detengono azioni della società per più di un certo periodo, 2 anni. È una misura che è stata introdotta anche in Italia, esiste già in altri paesi, ad esempio in Francia, con un decreto legge dello scorso anno. È importante perché è una misura che cerca di evitare la speculazione, le speculazioni nel brevissimo termine. Scrive il direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano: questo giornale ritiene utile garantire modalità di voto plurimo agli azionisti stabili del mondo produttivo e finanziario in un quadro di regole certe e concorrenziali di lungo periodo che smetta di penalizzare ulteriormente chi continua a investire in Italia rispetto a chi opera nei paesi del nord Europa e in altri mercati fortemente competitivi come quello americano. Una misura appunto da sostenere, come si spiega l'appello riportato oggi sul Sole 24 Ore e rinforzato anche dal questo scritto del direttore già dalla prima pagina. C'è poi un editoriale questa mattina sul Sole 24 Ore di Luca Ricolfi, la macchina dell'incertezza. Sentiamo spesso parlare di fiducia, necessità di ritrovare fiducia, di ridare fiducia. Scrive Ricolfi: si fa presto a dire fiducia, anzi a pretenderla dai cittadini, ma bene anche rendersi conto dei limiti della fiducia. Non nel senso che conti poco, ma nel senso che non piove dal cielo. Quando i politici esortano le famiglie ad avere fiducia, le imprese, a fare la propria parte, i cittadini a prodursi in uno scatto di reni, sembrano presumere molto idealisticamente che il coraggio e la fiducia siano puri atti di volontà, stati psicologici e abiti mentali che noi possiamo adottare solo che lo desideriamo, magari persuasi e infiammati dalle parole alate di qualche tribuno in TV. Non è così, sfortunatamente, dice Ricolfi, una dichiarazione avventata è sufficiente a generare il panico, mentre per costruire la fiducia, quella che serve a un paese per risollevarsi, non servono parole ma atti concreti, atti positivi naturalmente, ma anche atti negativi, opere ma anche omissioni, fare ma anche astenersi, perché la via maestra per creare la fiducia è smettere di produrre le condizioni che alimentano la sfiducia, così nell'editoriale del Sole 24 Ore di questa mattina. Poi naturalmente sul Sole 24 Ore continuiamo a parlare del franco, l'improvviso, robustissimo apprezzamento della moneta svizzera sta provocando una serie di reazioni a catena. La misura è in qualche modo stata adottata per cercare di evitare speculazioni in vista del quantitative easing della BCE settimana prossima. All'interno oggi sul Sole 24 Ore si segnala come questo valore fortemente aumentato del franco in pochissimo tempo, in soli 2 giorni, abbia poi effetti anche sulla norma in vigore dal 1 gennaio che cerca di incentivare o comunque consente il rimpatrio dei capitali detenuti illecitamente all'estero. Voluntary disclosure, anche qui 2 parole inglesi, ma insomma siamo oramai abituati a questo utilizzo della lingua straniera. Voluntary guadagni da superfranco, imposta ampiamente compensata dal beneficio che deriva dal cambio, oggi sul Sole 24 Ore. In primo piano. E ancora una buona domenica, ultima parte della nostra rassegna stampa. Abbiamo cominciato ad affrontare i temi economici, lo abbiamo fatto con alcuni titoli che trovate questa mattina sul Sole 24 Ore. Temi economici, perché quella che si apre domani è la settimana del famoso quantitative easing, la misura di politica monetaria non convenzionale che la Banca Centrale Europea prenderà giovedì per cercare di agevolare la ripresa negli stati dell'euro. Sul Sole 24 Ore, nelle pagine interne, naturalmente ampio spazio dalle ultime trattative sui dettagli di questa misura. I nodi da sciogliere sono quanto appunto l'acquisto di titoli del debito degli stati, il tipo di titoli da acquistare, la ripartizione del rischio tra i paesi. Sono tutte cose che dovranno essere chiarite prima di giovedì, prima dell'intervento della Banca Centrale Europea, che vengono appunto spiegate nelle pagine interne oggi del Sole 24 Ore. Ma la prossima settimana è atteso anche martedì, per quanto ne abbiamo saputo fino ad ora, un Consiglio dei Ministri nel corso del quale dovrebbe essere varato un maxi decreto per agevolare gli investimenti. Per il momento il suo nome in gergo è Investment Compact, dovrebbe contenere, leggiamo dal Sole 24 Ore di oggi, dove ci sono una serie di anticipazioni su questo provvedimento che sarà esaminato appunto martedì, anche una estensione delle misure per il rientro dei cervelli, cioè quelle misure che consentono di incentivare il rientro di ricercatori sia appunto delle università ma anche in azienda dai paesi stranieri dove si sono recati a lavorare. E poi si aspetta anche una ulteriore stretta sulle società municipalizzate, se ne era parlato molto durante i mesi della legge che hanno portato al varo della legge di stabilità tra ottobre e novembre, poi nella legge di stabilità non si è trovato grande spazio, ma annuncia oggi il Sole 24 Ore che ci saranno delle modifiche al disegno di legge Madia sulla pubblica amministrazione per commissariare fino a 2.400 di queste società municipalizzate, le partecipate dei comuni, quelle che sono appunto con i bilanci in rosso. Questo sul Sole 24 Ore. Restiamo sui temi economici con il Corriere della Sera, perché anche il Corriere racconta appunto delle vicende del franco, viene dato spazio anche agli aspetti più della vita quotidiana, in qualche modo file e negozi vuoti, lo shock della Svizzera, perché è diventato molto più conveniente venire a fare spese ad esempio in Italia, una prassi che in realtà negli anni, nei decenni si è vista spesso a seconda di come fluttuava appunto il rapporto allora tra il franco svizzero e la lira italiana, adesso tra il franco svizzero e l'euro, e un confronto anche appunto tra chi ci perde, un venditore, un negoziante di abbigliamento a Chiasso, i clienti sono spariti oltre il confine, lamenta sul Corriere della Sera di oggi, e chi ci guadagna, appunto gli italiani che hanno negozi vicini, prossimi alla Svizzera, a Como tante prenotazioni, leggiamo dal Corriere della Sera, ora prepariamo le offerte speciali, con la galleria si arriva in 10 minuti da Lugano, e quindi si annunciano anche offerte ad hoc, offerte mirate per questo afflusso che si prevede continui anche nelle prossime settimane, sfruttando appunto il diverso rapporto di forza tra il franco svizzero e la moneta unica europea, diverso rapporto di forza che si è concretizzato in soli due giorni, tra giovedì e venerdì. E poi dal Corriere della Sera un'altra notizia economica, notizie che trovate un po' su tutti i giornali, l'Eurostat ha certificato che da noi uno su sette non cerca lavoro, è il triplo della media europea, 3,6 milioni, e la cosa viene riferita appunto dal Corriere della Sera con un ampio titolo nelle pagine interne. Un passaggio veloce su altre vicende invece che vengono date con maggiore enfasi da altre testate. Ad esempio il giornale Libero decidono di dare ampio spazio nelle loro prime pagine ancora alle vicende che interessano Greta e Vanessa, cioè le due cooperanti che sono state rapite in Siria, sono tornate ieri a casa, per le quali sarebbe, non ci sono conferme ufficiali, sarebbe stato pagato un riscatto. La cifra che circola è quella appunto dei 12 milioni di euro, ma non ci sono di questo tipo per questo conferme ufficiali. Allora, sul giornale, il segreto delle due ragazze, altro che solidarietà, così scrive il giornale. Greta e Vanessa, smascherate da una telefonata, portavano in Siria kit di sopravvivenza per l'ISIS, cioè appunto lo Stato islamico integralista, il califfato autoproclamatosi Stato islamico. Una norma del codice civile, scrive sempre il giornale, prevede che restituiscano i soldi pagati dallo Stato per il loro riscatto. Questo come titolo principale del giornale. Il tema è scelto come tema più importante della giornata anche da Libero. Greta e Vanessa, le infermiere di Al-Qaeda. Le amicizie pericolose delle ragazze inviate in Siria per portare kit di soccorso ai miliziani della Fratellanza Musulmana. La lettera per l'adoratore di Bin Laden, la telefonata in cui ammettono: siamo con i rivoltosi, non siamo neutrali. Questo su questi due giornali. Le polemiche appunto su Greta e Vanessa trovano spazio naturalmente anche su altri giornali. Ieri ad esempio sul Giorno le dichiarazioni del padre di Vanessa, che ha detto: le ragazze non devono scusarsi, non c'è niente di cui debbano scusarsi. E poi naturalmente, accanto alla soddisfazione, alla comprensibile sollievo delle famiglie che hanno visto ritornare le due ragazze tenute prigioniere per mesi in Siria. Vi do una ultimissima segnalazione in questi minuti sempre dal giornale, anche se è una notizia che trovate magari con meno spazio, però va detto, su altre testate. Dopo Je suis Charlie, cioè lo slogan che ha dilagato in tutta Europa, in tutto il mondo, possiamo dire, dopo l'attentato terroristico alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, ebbene ora arriva anche qualcuno che pensa a una riabilitazione di Bettino Craxi. Ora si può Je suis Craxi, compare appunto è comparsa una maglietta. Stefano Zullo sul giornale dedica una intera pagina a questa iniziativa. In 150 ad Hammamet con queste t-shirt, queste magliette inneggianti al leader del PSI. E la figlia Stefania che dice che paradosso, lui è morto latitante, amato corre per il colle. Già, il colle, alla fine del mese ci sarà. Ci saranno le consultazioni per eleggere il successore del Presidente della Repubblica. Qualche giornale prova anche a rimettere una sorta di toto candidati, di toto Quirinale. Effettivamente il nome di Giuliano Amato è quello che rimbalza con maggiore frequenza oggi dai quotidiani. Resto sul giornale, ma per parlare di tutt'altro. Addio alla vecchia fattoria, sono spariti 2 milioni di animali. L'allarme è della Coldiretti, il servizio sul giornale di Oscar Grazioli. In 6 anni le campagne sono diventate deserte dall'inizio della crisi economica. Stalle, pollai, ovili si sono svuotati. Ci sono 130 razze a rischio di estinzione e con pesanti conseguenze economiche. Tra gli animali a rischio di estinzione, appunto, la vacca garfagnina, la mora di Romagna, la capra girgentana, che sono in pericolo. Il valore economico di tutto questo, il valore economico dell'allevamento italiano è valutato in 17 miliardi e 300 milioni di euro, quindi un impatto decisamente pesante. E con questo è tutto, buona domenica da Mauro Meazza.